E nelle sagre anche l'allegria spensierata dei giovani che con questo vecchio ciribiribin, suonato a ritmo dal complesso di Tonin Kuberli e cantato da Bruno Rossi, inneggiano alla festa e all'amata. Si passe l'ore, ciribiribin, a far l'amore. Ciribiribin, domani è fiesta, ciribiribin, non si lavora. Ciribiribin, si passe l'ore, ciribiribin, a far l'amore. Domani è fiesta, non si lavora. Si passe l'ore, a far l'amore. Domani è fiesta, ciribiribin, non si lavora, ciribiribin, si passa l'ora, ciribiribin, a far l'amore. Le feste di Furlania, però, non possono svolgersi senza un pensiero ai lontani. Questa moderna canzone, intitolata Chiare lontane, di Donato, e cantata da Galdino Turco, esprime appunto tutta l'accorata nostalgia degli assenti, che sognano di tornare al loro focolare per riabbracciare la vecchia madre. Oh, tiare me. suoi voti. Chiudiamo questa breve trasmissione con l'antica villotta popolare carnica dal titolo Mieli, cantata dai paesani di Prato Carnico. Rechi essa a ciascuno di voi il segno delle più schiette tradizioni canore del popolo friulano. Mieli, mieli, sempre mieli, e mieli, mieli, e stravigno. La blu e biella abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.